la versione di Oscar. Di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24. In questo 17 di gennaio, lunedì, 16 di gennaio, non 17, scheda sbagliata, ma io me lo ricordo che oggi è lunedì 16 di gennaio. Allora, 16:31 primi, in diretta da Milano, vi saluto e vi ringrazio per l'ascolto. La versione di Oscar, come sempre, Oscar Giannino. E vi ricordo l'indirizzo, la versione di Oscar, @radio24.it, per estendere ancora, le abbiamo ricevute tantissime. Di lettere da giovani italiani o meno giovani che stanno in Italia ma si sono pentiti, o chi è andato fuori per lavoro o per istruzione. Quindi abbiamo di che cominciare, tra questa la prossima settimana, con la trasmissione per talenti misconosciuti dall'Italia. Continuate ancora però, perché così andremo avanti e abbiamo oramai una ricchissima serie di settori, perché dall'università ai ricercatori, da imprese di diversi rami e così via. L'esperienza che ci state segnalando, con la disponibilità anche a intervenire in trasmissione con il vostro cellulare, infatti questa settimana iniziamo a chiamare quelli dall'estero per vedere come fare con i fusi orari, per consentire una riflessione nel tempo su questo argomento. Ripeto, due toni da evitare, né geremiadi né senso di superiorità verso chi non ce la fa o resta in Italia. Però detto tutto questo, grazie e continuate a scriverci. L'argomento di cui parliamo oggi, ve lo dico subito, se volete telefonarci all'800 24 0024, è quello degli insegnanti di sostegno, e in particolare di questa giostra, ohimè, è un sostantivo che mal si adatta a quello che avviene nel nostro paese. Noi abbiamo 233.000 alunni disabili nel nostro paese, e sommando i docenti di sostegno per questi 233.000 ragazzi disabili, sommando gli stabili e quelli in deroga, sono 137.000 unità. Ebbene, di queste 137.000 unità, ad aver cambiato assegnazione nell'ultimo anno sono, anzi negli ultimi tre mesi, sono 60.000, quindi praticamente uno su due. Il che significa che oltre 100.000 dei 233.000 alunni disabili, a cui sostegno sono volti questi insegnanti, si trovano ad aver cambiato interlocutore. Naturalmente stiamo parlando di fasce di ragazzi e ragazze che hanno handicap, difficoltà o disabilità di ordine vario e diverso. Per loro, più ancora che per tutti gli studenti italiani, vale la fondamentale centralità della continuità del rapporto con la figura di docente che si trovano assegnati, perché la variazione del tempo su queste particolari fasce di debolezza esercita influenze e conseguenze ancora più negative che su tutti gli studenti italiani. Ci siamo già occupati della giostra dei supplenti nel nostro paese, che doveva scomparire con la buona scuola e non è stato così. E credo che anche l'anno prossimo, col provvedimento firmato dal neo ministro Fedeli, che consente la riassegnazione alle scuole vicino a casa senza più l'accettazione obbligata dei tre anni post assegnazione, laddove c'è la domanda di cattedra da coprire, cioè a nord, credo che si creerà un problema aggiuntivo. Ma intanto oggi occupiamoci di questo. Quindi, se avete esperienza diretta, se siete un insegnante di sostegno che vuole spiegarci come e perché, se giustamente pensando che sia l'esercizio di un diritto, non stiamo mica parlando di prassi illegali, vorrei essere chiaro con questo, non mancare di rispetto a nessuno. Se siete genitore di un ragazzo o di una ragazza disabile ed è cambiato l'insegnante, in ogni caso vi pregherei di chiamarci per darci la vostra esperienza. Ma intanto gli ospiti per spiegarci come stanno davvero le cose. Anche questo dossier, come in generale quello della giostra dei supplenti e delle amplissime sacche di insuccesso del concorso la scorsa estate, successiva alla prima messa in ruolo di massa per circa 90.000 unità con la buona scuola, tutte queste notizie, e soprattutto non le notizie, ma uno studio accurato dei dati e una raccolta di dati territoriali aggiornati, non voglio dire in tempo reale, ma al mese precedente, ebbene, anche questo fenomeno, come vedete i numeri sono relativi ai trasferimenti degli insegnanti di sostegno negli ultimi tre mesi, quindi sono dati freschi, non ci vengono naturalmente dal MIUR, posso anche capirlo, ma ci vengono invece dall'azione di informazione che non è solo fatta di aggiornamento normativo per tutti gli addetti ai lavori, ma che è preziosissima per tutti noi giornalisti per seguire con cifre, andamenti e tendenze aggiornate ciò che avviene nel territorio, nell'universo della scuola. Anche questo si deve all'opera di informazione, di raccolta dati e di interpretazione che ci viene da tuttoscuola.com, sito sul quale vi invito a sistematicamente, se siete anche solo genitori, contribuenti, non solo insegnanti, gli insegnanti lo conoscono, ma andate ad abbeverarvi su tuttoscuola.com, perché è la fonte prioritaria di quello che avviene nell'intero universo della formazione pubblica nel nostro paese. E abbiamo con noi, appunto, per capire meglio questo fenomeno, Giovanni Vinciguerra, che è il direttore di tuttoscuola.com. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi. Buon pomeriggio, grazie a voi. Allora, innanzitutto le cifre che ho riferito le ho lette, per essere corretto, dall'articolo con cui ancora una volta, come avvenne già per i supplenti, è il Corriere della Sera a lanciare questo tema con la giusta attenzione. In prima pagina, una pagina intera, a firmare l'articolo è Gian Antonio Stella, quindi i numeri li ho presi di là e immagino che siano appunto i numeri che tuttoscuola.com gli ha dato. Io chiederei però a Giovanni Vinciguerra di farci capire: questo fenomeno è sempre così negli anni, oppure ha subito regressioni? Se ha subito regressioni in alcuni anni, come mai? Adesso sta subendo accelerazioni anche qui, come mai? È chiaro che si tratta di un esercizio di un diritto legittimo, ma è possibile che non ci sono nel nostro ordinamento nessun tipo di limiti a un esercizio di diritti da parte degli assegnati che confligge così frontalmente, in particolare con la debolezza riconosciuta di questa fascia di ragazzi e ragazze che frequentano la scuola? Vinciguerra. Sì, intanto tutto il dossier è disponibile appunto su tuttoscuola.com con tutte le cifre, e la risposta è che questo fenomeno c'è sempre stato, ma è esploso nell'ultimo anno. Come allora mai? Vale la pena di dire intanto che il fenomeno, diciamo, si compone in particolare di due aspetti. Uno riguarda la mobilità dei docenti e quindi possibilità che viene data ai docenti di chiedere il trasferimento, e questo riguarda i docenti di ruolo. L'altro fenomeno che determina una grandissima instabilità e quindi questo carosello, la giostra, come la chiamava, dei docenti, è questa non è, diciamo, dovuta a una scelta dei docenti stessi, perché riguarda i cosiddetti docenti precari, cioè quelli che hanno un contratto a tempo determinato che viene rinnovato di anno in anno, e i meccanismi complessi della nomina di questi supplenti attraverso delle graduatorie sia provinciali che poi di istituto, prima di istituto e poi provinciali, fa sì che diventi una lotteria, per cui quel docente l'anno successivo nel nuovo contratto si ritrova nella maggior parte dei casi in un'altra scuola. Pertanto vanno trattati separatamente questi due aspetti. Riguardo al primo, quello della mobilità dovuta alle richieste di trasferimento, negli anni è un fenomeno che si è sempre attestato intorno al 10% del personale, che a nostro avviso è un numero enorme, che ben poche organizzazioni, aziende potrebbero riuscire a gestire. Viceversa, da decenni, da sempre, questo accade nella scuola. Quello che è successo però quest'anno è che, a seguito dell'applicazione della riforma della legge 107 del 2015, la cosiddetta della buona scuola, sì, è stata data la possibilità di fare un piano straordinario di mobilità, dopo il quale sarebbero implementate le norme previste dalla legge riguardo, per esempio, ai nuovi meccanismi di reclutamento dei docenti, la cosiddetta chiamata diretta, sì, che consentirà alle scuole di scegliere il docente piuttosto che viceversa, perché sì, oggi il sistema è che il docente fa domanda di andare presso una scuola, e se ha la graduatoria glielo consente, va a lavorare in quella scuola. Quindi la riforma ha previsto questo anno straordinario di mobilità, E diciamo il fenomeno è esploso ed è ha raggiunto circa il 30% della del totale, mobilità del dal 10 al 30%. Poi tra il ruolo e precari, insomma. Diciamo che poi con i precari la cosa ulteriormente purtroppo si è ha creato ulteriore carosello, ulteriore confusione, e questo è un fenomeno, quello dei precari, che magari lo vedremo dopo, è particolarmente forte nel settore dei docenti di sostegno. Ecco, naturalmente sottolineiamolo, è stata consentita la mobilità straordinaria in vista delle successive entrate in vigore delle norme che consentono poi ai dirigenti scolastici un ruolo per quello che riguarda il completamento dell'offerta formativa, non che si scelgano la pianta organica di tutta la scuola, ma però nello stabilire questo regime straordinario di mobilità straordinaria, un limite che avesse a cuore la tutela della qualità e della continuità minima dell'offerta formativa neanche a questa fascia di studenti non c'è stato messo. Anzi, tra l'altro, adesso per il prossimo anno nell'intesa tra governo e sindacati per la mobilità del prossimo anno è stato previsto che anche per il prossimo anno sarà tolto questo, non sarà in vigore questo vincolo di permanenza triennale. Ripeterà il prossimo anno, è molto probabile che questa confusione, se non cambia, si aumenta. Era quello che dicevo quando indicavo il primo provvedimento dichiarato dal neo ministro Fedeli. Allora, sentiamo l'esperienza di un dirigente scolastico sul campo, poi torniamo a Vinci Guerra, perché abbiamo richiamato il dirigente scolastico di l'Istituto Tecnico Commerciale Salvemini di Casalecchio di Reno, che a inizio ottobre aveva avuto eco sulla stampa nazionale, noi per questo lo sentimmo, perché questo dirigente scolastico, che si chiama Carlo Braga, si era trovato nella condizione di dover dire ai genitori dei ragazzi disabili che frequentano il tecnico commerciale Salvemini a Casalecchio d'Arenio: mi dispiace cari genitori, mi dispiace proprio, però per pochi giorni vi devo chiedere una cosa che mi sento in difetto nel chiedervi, ma non ho alternative. Perché ve la devo chiedere? Vi devo chiedere purtroppo per qualche giorno, finché non risolvo il problema, mi sto dedicando a risolvere il problema, però vi devo dire, nell'interesse dei vostri ragazzi e di tutti, che dovete per qualche giorno tenerli a casa. Per quale ragione? Perché io, diceva Braga, che venne anche ai nostri microfoni a spiegarlo, ho avuto assegnati per questo istituto 18 docenti di ruolo specializzati da altre regioni proprio per il sostegno ai disabili, però di questi 18, 17 su 18 si sono presentati il primo settembre, si erano presentati per firmare il contratto triennale, appunto quello la cui assegnazione non è più vincolante, ha annunciato la Fedeli, però si sono subito assentati dal lavoro per malattia o per assistere i familiari secondo la legge 104 e ottenere quindi un'assegnazione temporanea vicino a casa. 17 su 18, finché io non riparo il problema, disse Braga all'inizio di ottobre, che vi devo dire cari genitori, con la morte nel cuore teneteveli a casa. Allora, proprio per questo lo abbiamo richiamato ai nostri microfoni. Buon pomeriggio dottor Braga, come sta? Buonasera, bene grazie, buonasera a tutti. Ma lei poi lo risolse quel problema? Sì, beh, naturalmente noi siamo lì apposta per risolvere i problemi, per cui nei tempi tecnici di metà novembre abbiamo provveduto a tutte le nomine del caso. Faccio una precisazione sulla questione del tenere a casa, che non fu esattamente così. Fu detto non avranno l'affiancamento individualizzato, giustamente, perché è una cosa un po' diversa. Giustamente, ha ragione a precisare. Giusto. A scuola sono venuti tutti, certo. E questo era il nostro impegno, e con la differenza che avendo la metà degli insegnanti che potevo avere non c'era la possibilità del sostegno individuale, ma certo. C'era un insegnamento individuale, non c'era l'insegnamento individualizzato, ma c'era di classe. Correttissimo. Ed è molto importante. E il completamento della pianta per il sostegno ai disabili è andato incontro a nuove venir meno, oppure sono tutti lì? Dunque, come ha detto peraltro benissimo il dottor Vinciguerra, insomma, i passaggi sono quelli: noi passiamo dai nominati di ruolo alle percorrere le graduatorie. Il meccanismo delle percorrere le graduatorie per individuare il supplente è una delle cose più faraginose che possa essere costruita da mente umana. Da mente sì, umana. Si tratta di contratti, cioè i contratti della mobilità sono due, uno per la mobilità annuale, uno per la mobilità generale, e questi contratti, se uno li volesse leggere, insomma, penso che difficilmente riuscirebbe a capire bene come funziona il sistema di mobilità, e in più ci sono i regolamenti. Risultato finale: una scuola deve far lavorare i suoi uffici spasmodicamente, attaccandosi al telefono, alle mail, per cercare di avere la disponibilità di un docente. So che non è corretto. Sì. No, scusi, in specifico il passaggio nevralgico è che sono stati in assegnazione provvisoria, sono andati via tutti i docenti specializzati, come ha puntualizzato lei, ma non essendoci più docenti specializzati disponibili, tutti i docenti nuovi che sono stati recepiti sono stati raccolti da graduatorie di materia. Di materia, docenti non specializzati. Allora, esatto. Le faccio una domanda, sapendo che è scorretta, a un dirigente scolastico che fa parte dell'amministrazione, non bisogna chiedere cose improprie perché fa parte di un'organizzazione gerarchica. Mi limito a chiederle questo: se dovesse dare un consiglio a qualcuno in alto che fa il legislatore o il consigliere del legislatore, per l'esperienza maturata sul campo, che una, due indicazioni per evitare che i ragazzi in primis disabili e poi i loro genitori si trovano esposti a questa girandola, quale potrebbe essere? Dunque, intanto bisogna tenere conto, e questo credo che le famiglie devono sapere, che la legislazione italiana è una delle migliori legislazioni sul piano dell'inclusività. Noi come verissimo, scuola ce l'abbiamo dalla fine degli anni 70, quando pochi paesi ce l'avevano. No, verissimo. Noi come scuola ospitiamo delegazioni straniere che vengono a visitarci per fatto di come funziona il sistema. Il problema è che le leggi corrette, così come era corretta la 107 nell'aumentare la dotazione organica, eccetera, passano poi attraverso una strettoia, un collo di bottiglia che è la gestione contrattuale, i contratti applicativi. E è chiaro che i contratti sono un momento di confronto politico delicatissimo. È vero è che i nostri contratti spostano il baricentro dalla qualità dell'attività scolastica sullo studente alla tutela del lavoratore. Allora, io non voglio che lei si inoltri oltre, perché non voglio che abbia problemi poi con il sindacato e i docenti. Mi permetto di dire io, visto che andiamo tra 60 secondi al traffico, e intanto io la saluto e la ringrazio per dato questa testimonianza. Sì, nel nostro ordinamento continua a esserci un palese ed evidente conflitto tra il diritto dei lavoratori, il diritto dei sindacati, che io intendo rispettare, e il mancato diritto al rispetto invece della qualità e continuità della formazione. Tra chi, punto numero uno, la scuola ci lavora, e tra chi invece la scuola la frequenta e la loro famiglia. E questo problema, cari ascoltatori, la buona scuola non ha risolto manco per niente, come vediamo in questi numeri. Mi dispiace dirlo, non c'entra niente il giudizio su Renzi, Renzi ci ha provato, ma come si vede quando si arriva all'attuazione, come ci ha detto Carlo Braga, poi si sbatte il muro contro il fatto che sembra che li vogliamo, tra virgolette, deportare, come dicevano una parte di loro, i docenti. Se passa il principio, devono andare dove c'è la domanda di cattedre e non vicino a casa. Allora, io mi fermo qua perché non voglio mancare di rispetto a nessuno, non sto generalizzando né sui docenti, né sul personale tecnico della scuola, né sui dirigenti, però questi numeri parlano chiaro e c'è un problema enorme di responsabilità e di coscienza civile di chi sta seduto a quel tavolo, la parte pubblica e la parte sindacale. Torniamo tra un minuto. La versione di Oscar. Eccoci qua, c'ho subito una mail che leggo senza commentare, perché è un punto di vista diverso dal mio e immagino maggioritario, quindi io non lo commento, ma capisco che questo è il punto di vista, ve la leggo. Giannino su Via, e basta con questo voler rendere gli insegnanti come gli impiegati del settore privato. Io ho detto questo? No, ma capisco che così venga generalizzata la cosa. Con se la mail prosegue: siamo un'altra categoria, Certo, lo siete. Abbiamo vinto un concorso pubblico e con esso la possibilità della mobilità in base al punteggio. Se ne faccia una ragione e parli di più degli evasori fiscali. Benissimo. Vuol dire che gli studenti disabili non hanno diritti perché avete vinto il concorso e ci avete il vostro diritto. Io penso che finché ragioniamo così non facciamo un gran passo avanti. Però lo capisco, ragionate pure così. Sono io che sbaglio. Vi voglio privatizzare. Quando mai? Stiamo parlando di quello? No. In altri ordinamenti secondo voi funziona così la parte pubblica? No, è solo che questo, chi solleva questa questione passa per una specie di nemico del sistema pubblico, neanche per idea. Allora, torniamo al direttore di tuttoscuola.com, Giovanni Vinciguerra. Voi non fate solo questo numero, perché in profondità esaminate questa questione, come avete fatto quella per il concorso, per i supplenti, insomma, per le cattedre mancate, mancata copertura dall'inizio dell'anno. Quali altri fenomeni si leggono? Per esempio, dal punto di vista territoriale, c'è qualche cosa che si può estrapolare per capire? Questo fenomeno è uniforme in tutta Italia? Il fenomeno è diffuso in tutta Italia, è però più accentuato al nord, perché al nord, come sappiamo, abbiamo un'incidenza maggiore di studenti, ma circa l'80%, 70-80% dei docenti, di coloro che aspirano, diciamo, a diventare docente, lo diventano, sono meridionali, e quindi c'è una spinta naturale a cercare il posto più diciamo vicino casa, e quindi questo crea una maggiore richiesta di trasferimenti. Inoltre al nord c'è anche una maggiore tasso di precarietà, quindi c'è una maggiore incidenza di docenti a tempo determinato, e questo fa scattare quel balletto delle supplenze di cui parlava prima il dirigente scolastico professor Braga. Però quello che mi sembra importante sottolineare è che questa situazione diciamo organizzativa della scuola alla fine scontenta tutti, perché scontenta le famiglie e gli studenti che si vedono ruotare così velocemente gli insegnanti, e questo è maggiormente grave, come diceva all'inizio, per gli alunni disabili, ma penalizza molto gli stessi insegnanti, che non si divertono affatto a trovarsi all'interno di questo meccanismo infernale. Per cui io credo che sia interessante anche cercare, cioè, data la fotografia della situazione, che è quella che noi abbiamo cercato di fare nel dettaglio, di cercare di pensare anche a delle soluzioni che a nostro avviso sono anche fattibili, sono compatibili con la finanza pubblica. È l'oggetto della seconda parte, ecco, diciamo, del nostro dossier, che noi pubblicheremo a breve nel pomeriggio sul sito, quindi è un po', diciamo, come dire, un'anticipazione che stiamo dando. Le soluzioni sono di due tipi, sono due sostanzialmente, e anticipo che abbiamo calcolato che avrebbero un costo, per quanto riguarda gli alunni disabili, di circa 1.650 euro l'anno ad alunno disabile, e quindi insomma una qualcosa di assolutamente ragionevole. Costo pubblico, non stiamo parlando di far pagare le famiglie, non so se è chiaro a chi ha ascoltato. Beh, io intanto ringrazio Vinciguerra per questa anticipazione che famelicamente andrò a vedere, invito tutti in ascolto a fare la stessa cosa, perché ormai il nostro tempo è scaduto, e grazie a quelli di tuttoscuola.com, grazie davvero per quello che fate, controllate su Radio 4, appuntamento con me e Alessandro Mina domani mattina alle 8:20, attenti alle 2.